Ciao, io sono Laura Voltolina e questa podletter è La sopravvivenza del più autentico semicit. Tra 6 giorni, il 15 novembre, succede una cosa che potresti non voler perdere, perché questo è il momento delle scelte. E allora parliamo di caos. La cosa del caos. A volte il caos sfonda la porta senza bussare. È successo a chiunque, sicuramente anche a te, che un evento inaspettato scardinasse le tue certezze in qualche momento della vita. Altre volte lo chiamiamo noi il caos, magari inconsciamente, per cambiare una pelle che ci sta stretta, ma non ce ne siamo ancora accorti. E allora ecco la sensazione di frattura fra ciò che fai e ciò che vorresti fare. Il senso di non appartenenza, di non essere abbastanza, di solitudine. Queste percezioni scomode, velenose, arrivano dal caos. Ed esiste un antidoto, un rimedio. In fondo ogni percorso serio inizia con qualcuno che si è perso. La cosa dell'autenticità. Quando tutto si sfalda, quando il caos prende sopravvento, la domanda è sempre la stessa. Chi sono io davvero? Non chi credo dovrei essere, non chi gli altri si aspettano che sia. Il chi sono, quello proprio puro e semplice. Negli anni ho visto la pratica trasformare persone molto diverse. Tra un avvocato veneto e una studentessa nepalese ci sono molte, moltissime differenze abissali, ma un denominatore comune più forte di ogni diversità. Si tratta, sempre e comunque, di persone in ricerca. E tutti cercano la stessa cosa, tornare a se stessi. Perché il problema quando ti senti frammentato nel caos è che stai applicando un'idea. E tu invece sei un essere umano, sei respiro e pulsazioni ed elettricità e connessione con gli altri esseri umani e con tutto ciò che vive. La tua interezza parla la lingua dei simboli, dei miti, del movimento. È da qui che nasce yoga e mitologia e l'arte di trovare la via nel caos. Come funziona in pratica? 4 appuntamenti in diretta, uno ogni settimana. Si inizia martedì 18 novembre dalle 20 alle 21, più le registrazioni, se non puoi partecipare alle dirette, ma pure se puoi, perché spesso e volentieri anche chi viene alle dirette si riguarda le registrazioni, trovando spunti nuovi che magari erano sfuggiti o riguardando i passaggi più interessanti. E se ti arrivano domande, io rispondo sempre. Fino al 15 novembre questo percorso è a 80 euro, dal 16 novembre in poi questo percorso è a 100 euro. Questo ciclo di incontri, yoga e mitologia e l'arte di trovare la via nel caos, rientra anche nel mio nuovo corso insegnanti yoga. Vorresti formarti come insegnante yoga e farlo con me? Questo potrebbe essere il momento giusto. Sto costruendo il gruppo di persone che parteciperanno al mio corso insegnanti yoga. Ogni parte del programma di questa formazione è stata testata, corretta e resa più semplice da tanti anni di esperienza in sale, ritiri, racconti, movimenti, respiro dopo respiro. Ed è l'estratto di oltre 25 anni di pratica, insegnamento e ricerca. Sto scegliendo con cura il gruppo di partecipanti. Se senti che è arrivato il momento di approfondire davvero, scrivimi. Ne parleremo con calma per capire se è la direzione giusta per te. Un incontro in presenza. Domenica 30 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, sui Colli Euganei, ci vediamo in presenza con yoga e mitologia e l'arte di fare reset. Il reset è la base della capacità di lasciare andare quello che non serve più per fare spazio a una chiarezza non pensata, ma sentita. Lo faremo attraverso il movimento somatico, yoga, il racconto mitologico e momenti guidati di integrazione. Il 30 novembre è proprio il momento giusto per recuperare strumenti concreti e attraversare le festività e ogni altro momento denso, arrivando dall'altra parte pieni di energia. Prenota il tuo posto rispondendo a questa mail. Ricapitolando, yoga e mitologia e l'arte di trovare la via nel caos sono 4 dirette e registrazioni. Si parte il 18 novembre e costa 80 euro fino al 15 novembre. Yoga e mitologia e l'arte di fare reset è in presenza il 30 novembre, una domenica mattina insieme. Corso insegnanti yoga, scrivimi se vuoi conoscere il programma e partecipare alla selezione. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Joseph Campbell. Se puoi vedere il cammino tracciato davanti a te passo dopo passo, allora quel cammino non è il tuo. Il tuo cammino lo crei tu con ogni passo che fai. È questo che lo rende tuo. Un abbraccio. Laura.